Sono Walter Marchigiano, nipote di Rocky Marciano, e benvenuti al Girolamo, Geronimo. Geronimo, sì. Geronimo, perfetto. Grazie mille. A voi, grazie della gentilezza e dell'ospitalità. Amiche e amici del pugilato e talvolta anche del ciclismo, se va avanti così anche dei cani che abbaiano, benvenuti alla... Adesso diventa un casino fare i conti con quella puntata fantasma, alla nuova puntata di Gironimo, il podcast di Al Vento in collaborazione con Bidon e Shimano. Difficile definirci, ma non ci definiremo, adesso ormai avete imparato a conoscerci. Benvenuti a Vasto, Hotel President, stanza 116, lo Sì. diciamo sempre, sperando sempre che arrivi qualcuno con delle cornucopie piene di alcolici di vario genere. Abbiamo solo una notte però qui, quindi tempo non ce n'è tanto. Amici di Correte. Vasto, passate entro le prossime 6-7 ore. Ma le cornucose? Vabbè, Michele Pelacces, dopo ci aggiorniamo anche su questo. Chi siamo? Chi siamo e chi era? Allora, cominciamo con la voce che ci ha introdotti oggi, Cominciamo con che è la un voce. grande ospite, era Walter Marciano, un ottantenne che è discendente diretto, nipote di Rocky Marciano, il pugile. L'ispirazione, l'ispirazione per quello, Ispirazione. l'ispirazione per quello. È stato uno degli incontri di giornata, mi spingo a dire, uno dei più belli e interessanti di questi anni di podcast. Addirittura. Perché è inaspettato, ce lo siamo trovato lì quasi all'improvviso, ma ne parleremo meglio dopo. Io sono Leonardo Piccione. Io sono Filippo Cautz. Io sono Michele Pelacci. Bene, abbiamo fatto un'entrata di puntata veramente caotica, come un po', non caotica, però complicata è stata la volata di oggi. Nemmeno complicata, è stata strana come strana è stata la puntata di oggi. La volata di oggi sarà anche questa puntata vasta, inevitabilmente. Sì, lunga soprattutto. Però cominciamo dall'ordine di arrivo, così facciamo ordine con la cosa più semplice che si possa fare, cioè leggere dei nomi. Ha vinto Jonathan Milan, poi secondo è arrivato David Decker dell'Arkea, terzo Caden Groves della Alpecin, poi quarto Arne Marit, c'è una sfilza di nomi difficili oggi come poche altre volte, quinto Marius Mayrhofer, corridore del DSM. E poi Ackermann, Gaviria, Bonifazio, Jake Stewart e Michael Matthews a chiudere la top 10. Leggo anche l'11º Diventa più perché facile come nomi avanzando questa avanzando top diventa più 10. Jake facile. Stewart, che Jake potrebbe Stewart e Michael essere un... Matthews, che sono abbastanza generici come nomi. Leggo l'11º perché l'11º è Simone Consonni e il 19º è Filippo Ganna e quindi il primo, l'11º e il 19º della tappa di oggi sono tre quarti del quartetto olimpico, medaglia d'oro 2 anni fa. Quindi 1 più 11 più 19? 1 più 11 più 19 fa 21. Non lo so, Fa stavo 31. provando a... Fa 31, 3 più 1, 4, il quartetto, ok, torna anche dal punto di vista cabalistico. Ma parliamo della volata. Allora, ha vinto Jonathan Milan, prima vittoria da professionista in una gara World Tour, prima vittoria al Giro d'Italia, perché è il suo primo Giro d'Italia. Vittoria pronosticata, ma non facciamo troppi. La vuoi trappola? Non Va bene, incensiamoci ci sta. troppo. Che dire di questa volata? Volata di potenza, netta. Perché strana? Perché l'hai definita strana, Filippo, questa volata? Perché è una volata. Allora, per due elementi. Uno, perché è stata una volata totalmente a centro strada. E il manuale del velocista dice: prendi l'esterno perché così hai solo un lato da difendere. Invece sono andati tutti al centro, che è una cosa che si vede raramente nelle volate del ciclismo, proprio perché è sbagliato, tra virgolette. Non sto dicendo, non sto accusando nessuno di aver sbagliato, però è un movimento che non segue il manuale. Secondo, perché è stata una volata di pura potenza. Se guardate il momento in cui viene lanciata questa volata, in un qualche modo. Prima usavano il termine una tonnara, cioè ci sono tutti questi velocisti da soli, tutti più o meno alla stessa altezza, che partono un po' dritti per dritti, sembra quasi una gara d'atletica su corsie. È stata una volata di pura potenza, una volata che si vede molto raramente nel ciclismo, che ha premiato un corridore molto potente, non è un caso, anche con uno stile quasi da centometrista di atletica, anche in quello, no? Questo grande movimento di spalle e di testa. E ci pensavo dopo, quando io non l'ho vista in diretta la volata, perché ero sull'auto del servizio tecnico di Shimano insieme a Pietro Algeri, per cui abbiamo sentito la diocorsa, non l'ho vista dopo un po' di tempo. E Pietro Algeri oggi nel corso della tappa mi raccontava di quanto gli piace Jonathan Milan prima che la tappa si concludesse, e diceva di averlo visto vincere una volata al Giro d'Italia Under 23, che dall'anno prossimo si chiamerà Giro d'Italia Next Gen. Il mio nome è Jen, sono una cantante ispirato a quello, ma anche questa Michele Pelacci non la sa, e gli ricordava addirittura Mario Cipollini. Ah, è interessante. Ma io volevo dire una cosa sulla stranezza, no? Queste volate un po' così vengono fuori, secondo me, quando manca il velocista di riferimento e la squadra di riferimento. Non c'è un treno, non c'è un velocista. Ci sarebbe Cavendish, ma è rimasto, se non ho capito male, esatto, un po' intruppato dopo la caduta ai meno 3 che c'è stata, di cui parleremo anche più avanti. Quindi queste sono le situazioni tipiche in cui emerge il nome nuovo, inatteso, con la differenza, secondo me, rispetto a tante altre volte, che Milan è qui per restare. Cioè, ha fatto oggi il suo esordio tra i grandi velocisti, e secondo me lo diventerà. Lo si ferma diventare. Vasto? Cioè, è arrivato qui, non fa il resto del Giro d'Italia? No, credo che lo faccia, però rimarrà. E ha iniziato oggi questa sua, secondo me, carriera da grande velocista. È una specialità in cui c'è dello spazio. In questo ciclismo di fenomeni specializzati, sempre più forti, che distruggono la concorrenza, non ci sono velocisti fenomenali, e quindi c'è una prateria per Milan per affermarsi, secondo me, in questa specialità in cui è molto bravo, mi sembra. Nella volata del 2020, di cui parlava Kautz prima, del Giro Next Gen... No, 2020 era il Giro Under 23. Grazie. Almeno finché possiamo dargli un nome normale, teniamocelo. C'erano anche lì Jake Stewart e Arne Marit. Così, una curiosità. Mi ha stupito come... ha un po' sfruttato nei 400 metri e quell'altezza lì Ganna il lavoro di Sinkeldam e di Groves, Milan il lavoro di questi due dell'Alpecin per lanciarsi, però poi sulla potenza pura una volata abbastanza lunga in cui per esempio velocisti come Gaviria si sono cotti molto presto, lui è venuto fuori col suo spunto esorbitante. Sì, sì, infatti vinta nettamente. Ti ho sentito riprodurre il suono della volata di Milan, lo puoi rifare? Non lo ricordo più. Era tipo qualcosa come Sprung. Sprung effettivamente è un po' teutonico. Esatto, ha vinto facendo Sprung in volata. Sì, non è un caso che ci fossero Sprung, non so adesso, non mi ricordo. Due tedeschi nella top 5, due tedeschi nella top 5, nella top 6. Mi correggo. Ma osservazione molto tecnica, visto che in questo podcast subentrano anche altri sport ogni tanto. In fuga oggi c'era un corridore che si chiama Champion o Champion, e ha vinto Milan. Non so se vuol dire qualcosa in questo anno in cui c'è il Napoli e Bugno che vince, che tiene la maglia rosa. La lasciamo lì. Però possiamo dire che secondo noi questo 2023 è l'anno di Bugno. Sì. Sì, è l'anno buono. Grande Gianni. Ma andiamo avanti a parlare di Jonathan Milan, perché è un ragazzo molto simpatico. È un orsacchiotto gigante. Io ci sono stato accanto oggi, è enorme, però è così, è molto tenero, ha una faccia ancora molto da bambino, perché ha 22 anni soprattutto, e perché è molto timido, però le idee sono molto chiare. E ci abbiamo parlato oggi, ci abbiamo parlato però in modo scanzonato, perché volevamo introdurre lui in questo podcast insieme al suo compaesano, perché ci sono due corridori di buia in questo Giro d'Italia. È la prima volta, credo, di non sbagliarmi dicendo che è la prima volta che ci sono due buiesi al Giro, Jonathan Milan e Alessandro De Marchi. Stamattina li abbiamo incontrati insieme prima della partenza e ha portato bene, e quindi ce l'ascoltiamo. Allora ragazzi, cominciamo. Che il tempo stringe. Sì. Nome e cognome? Milan Jonathan. De Marchi Alessandro. Età? 22. 37. Non lo sai. 30. Giro d'Italia numero? 1, il primo. Ecco, un'altra cosa. Forse 6 è l'inizio del settimo. Ti ricordi più niente? Più mezzo, l'abbiamo fatto, quindi dai, 7 e mezzo. 7 e mezzo. Prima volta che hai sentito parlare di lui? Avevo 11 anni, penso. 11 o 12 anni, sì. Prima volta che sento parlare di Johnny? non mi ricordo quanti ne avevo. Però no, che lui era molto piccolo, dai, forse era juniores, dai. Piccolo come età, no? Ovviamente, ovviamente. Sì. Una qualità di Alessandro che vorresti avere? La grinta di non mollare mai, perché è vero. Fuga, attacchi, quello. Qualità di Johnny che vorresti avere? Io vorrei avere la giovinezza di Johnny. La freschezza. La prima parola che ti viene in mente quando vedi una salita? Mannaggia. All'inizio, finalmente, e dopo 2 minuti, in base a cosa succede davanti, potrei cambiare versione. Quando vedi Remco Evenepoel? Quando vedo chapeau, non lo so, bravo. Io direi sti cazzi. Quando vedi Buia? Buia, ragazzi, il paese più bello del mondo, non c'è niente da dire. Qua devo copiare di sana pianta Johnny, assolutamente, casa, dolce casa. Chi mangia più frico? Boh, io si vede dalla stazza, no, penso. Io bevo più rosso. Chi ha più tifosi a Buia? Boh, penso entrambi, dai. Vabbè, dico abbiamo... io per una questione di vecchiaia, dai, di... presenza sulla strada. Però dobbiamo dire che abbiamo un paese che ci supporta molto. Cosa c'è a Buia nell'aria che fa venire fuori gente che va forte in bici? Ma forse più che in Buia è il contesto attorno Buia, il fatto noi veniamo dalla stessa squadra dilettantistica. Quella è forse veramente la cosa che ci accomuna. Poi suo padre aveva insomma una storia da ciclista prima, ha iniziato anche lui nella Buiese, poi è diventato prof, insomma c'è tutta una storia dietro di ciclismo in sé, no? Ultimissime cose, chi vince tra voi due giocando a carte? Oh, lui, non sono capace a giocare a carte. Non abbiamo mai, dobbiamo fare una sfida, non dai, una briscolata. Ecco. E a bocce? E anche quella boccia ci manca. Forse lui perché ha le braccia più lunghe, non lo so. Sì, dai, possiamo... Io, dai, ecco. E al giro? Questa. Chi vince? Abbiamo visto che il signor Renko sta bene. Però anche Almeida e McNulty non... Ma io intendevo tra voi due in realtà. Chi vince più tappe al giro? Una testa Buia sarebbe in delirio. Sì. La festa di Napoli diventerebbe piccolina in confronto. Senti Johnny, cos'è questa asciugascarpe che ti sei portato? Ho letto un'intervista, è vero? Sì, è un piccolino... Come sono dei pezzettini di plastica che si riscaldano, che si mette dentro, e per me non può mancare mai, sinceramente. Sì, durante le giornate di pioggia, eccetera, soprattutto ecco, per le classiche. È già un bel segno di sfiga, perché portarsi dietro quella roba al giro vuol dire che te la chiami. Esatto. No, non si sa mai, no? E invece il tuo libro, un noir leggero, hai detto, che libro è? Io con i titoli... No, allora, aspetta, forse me lo ricordo. 3 passi per un delitto, De Giovanni e altri due autori, è una roba a tre. Una roba a tre. Può significare tante cose. Ragazzi, grazie, in bocca al lupo a tutti e due, grazie. Ci vediamo in giro. Grazie. Crepi. Crepi. Ciao, grazie. Yes. Una testa. Adesso Dema, so che ci ascolti, mo so cazzi, diciamolo con i termini tecnici, però se succede veniamo anche noi alla festa Buia. Sarà una festa straordinaria. Fatemi dire una cosa. Sarà, a prescindere adesso, speriamo che ne vinceranno entrambi ancora parecchie. Ci tengo a dire una cosa, un retroscena su queste interviste che noi facciamo. Quest'anno siamo tornati a farle ai bus delle squadre, perché si sono venute meno le regole introdotte per la pandemia. L'OMS ha dichiarato che il Covid è terminato, però gli è tornata indietro la mail che hanno mandato a info@jumbovisma.com. Sì, però adesso siamo autorizzati a tornare ai bus, però bisogna fare in modo, se vuoi intervistare due corridori di due squadre diverse, che i bus siano vicini, altrimenti uno sta da una parte di un paese e uno dall'altra. Oggi erano vicini i bus della Bahrain e della Jaico, le due squadre dei due corridori di Buia, quindi è stato possibile farla. Milan era un po' teso all'inizio, perché è il suo primo giro, la sua prima volata, sapeva che oggi sarebbe stato protagonista. Poi, quando abbiamo cominciato a chiacchierare insieme a De Marchi, è arrivato De Marchi, avete sentito, si è sciolto, hanno scherzato, hanno un sorriso, e poi la giornata è stata straordinaria, almeno per uno dei due, e sono contento, siamo contenti. Come si è sciolto anche in conferenza stampa, quando gli hanno chiesto qual è stata la prima cosa che ha pensato dopo la linea del traguardo, ha detto tante cose, ha lanciato un urlo liberatorio, che tra l'altro ho ripreso perché ero lì, ho avuto la fortuna che lui si è proprio fermato quasi davanti a me, insomma, quindi è stato un bel momento. E poi ha detto lì che si è messo a piangere quando ha pensato al fatto che la sua famiglia da casa lo stava guardando. È sì. Molto, molto bella come cosa, no? E alla sua vita che forse è cambiata, adesso lui... certo, era già un campione olimpico, però adesso è il riferimento per le volate, almeno in Italia. Ma passiamo alla classifica generale. Allora, classifica generale che è cambiata in alcune posizioni, perché, Michele, aiutami, qualcuno degli uomini di classifica ha perso oggi 19 secondi a causa della caduta. La caduta a chilometro... Ai meno 3.6, per la precisione, ha coinvolto tra gli altri Kanter, Hull, Tosveld... E hanno perso, come dicevi, tempo importante, 20 secondi quasi, Haig, Vain, Gegenhardt, Pinot, Uran, Pozzo Vivo e Fortunato. A vario titolo, insomma, uomini di classifica generale, però... I 20 secondi persi da Gegenhardt possono avere un peso non indifferente, perché infatti lui è sceso in classifica generale dalla quarta all'ottava posizione. Le altre posizioni sono fondamentalmente invariate: Remco in maglia rosa, Filippo Ganna secondo a 22 secondi, terzo Joao Almeida 29, e poi a scorrere Kung, Roglic, Thomas, Vlasov, appunto Gegenhardt, McNulty e Vine, che chiude la top 10 anche lui con 20 secondi in più di ritardo rispetto a ieri. Sai chi dovevi chiedere la dinamica della caduta? No. A Remco Evenepoel. Perché? Perché oggi lui si è presentato in sala stampa e ha ricostruito la caduta dicendo: questo ha toccato questo, che ha toccato quest'altro, che ha toccato quest'altro, e ha ricostruito perfettamente l'intero domino della caduta, che non l'ha coinvolto. Mi ha stupito, soprattutto perché mi ha fatto capire quanto è attento. Cioè, ricostruire esattamente nel dettaglio, corridore dopo corridore, come si sono toccati, è una roba che denota una enorme attenzione. E c'è un'altra cosa che mi ha stupito in questa... Cioè, mi ha fatto molto piacere, non tanto stupito, in questa... sua ricostruzione della caduta, che aveva detto: io volevo arrivare ai 3 km e poi sfilarmi e lasciare spazio ai velocisti, perché noi uomini di classifica e i velocisti tra noi c'è grande rispetto e non vogliamo ostacolare il lavoro reciproco. Bravo Remco, non ostacoliamoci nessuno nella vita. Sì, di nuovo, mi è sembrato molto sul pezzo, addirittura ha avuto la mente lucida di dire: questa è una tappa facile, una delle più facili del giro, ma nella terza settimana, in riferimento alla tappa di Caorle, ce ne sarà una ancora più facile. Cioè, ha già praticamente le 21 tappe tutte quante in testa. È un computerino, Remco, sì, sembra che sia così, e però allo stesso tempo era anche più sciolto di ieri, almeno l'ho visto in conferenza stampa, sì, con le gambe accavallate, e cos'altro? Sì, decisamente più libero, anche fisicamente, nei gesti. Sta cominciando ad avere maggiore familiarità con la maglia e con la leadership. Ma andiamo avanti rispetto a quello che è successo oggi. Anzi, andiamo indietro in realtà, perché la tappa non è stata solo volata, fondamentalmente sì. Però prima c'è stata una fuga molto lunga, che non è andata evidentemente in porto, con dei protagonisti. Perché fai questo gesto così? Perché è andata in porto negli obiettivi che si erano posti i fuggitivi. Ah, certo, che erano quelli di prendersi giocare su altre classifiche. Per cui, secondo me, questo è esattamente un esempio di fuga andata in porto nella volontà di chi l'ha animata. E non, chiaramente non per tutti, perché poi non c'era sulla griglia, non c'erano arrosticini, che poi non si fanno sulla griglia, sulle cannelle, come si chiamano quelle per fare gli arrosticini, su quella roba lì che si scalda non c'erano arrosticini per tutti, però per qualcuno è andata in porto. Quantomeno per Paul Lapera della Je Desert, che è il nuovo leader della classifica dei Gran Premi della Montagna. Ma noi abbiamo incontrato, Michele ha incontrato in realtà uno degli altri fuggitivi di giornata che non è riuscito a portare a casa il suo obiettivo, che è Stefano Gandin della Coratec. Ascoltiamo. Siamo con Stefano Gandin, fuggitivo Tantissimi chilometri oggi in fuga, quanti? Hai fatto un conto? Ma penso abbiamo fatti 170, 180, non lo so. Siamo andati abbastanza regolari, l'obiettivo sarebbe stato prendere la prima maglia GPM. Purtroppo legame un po' legnoso all'inizio, non sono riuscito a vincere il primo, quindi automaticamente non riuscivo a prendere la maglia. Sono concentrato sui due sprint, adesso vediamo di recuperare bene, dosare le energie perché è il mio primo grande giro e magari prendere qualche fuga anche più avanti che potrebbe magari arrivare. Dici un po' sta roba, prima tappa in linea del tuo primo giro d'Italia e vai subito in fuga, 170 km, come è venuta l'idea? Hai detto, quando è che hai detto ok, la facciamo sta cosa? Ma diciamo che io sono un po' un attaccante di natura, non sono un velocista puro, quindi non posso fare risultato nelle volate, come non sono uno scalatore puro, la possibilità che ho di vincere e andare in fuga, soprattutto nei percorsi misti. Oggi sì, è la prima tappa di mio grande giro, però andare in fuga mi piace e niente, dai, ci riproveremo. Dici un po' in fuga cosa è successo, cosa vi siete detti, c'era un italiano, poi c'erano due francesi, come è stato il dialogo anche tra di voi? Ma diciamo che non abbiamo parlato tanto, dopo il primo GPM abbiamo visto che quello della Jet Desert praticamente aveva preso la maglia perché era difficile poi con tutti i conteggi prenderla. Io ho parlato un pochino con Bice, che eravamo due italiani, poi c'era Verre, mi sembra, ma anche lui quando ha visto che il GPM era andato si è staccato. E niente, dopo siamo andati abbastanza regolari comunque. Obiettivi per il prossimo, insomma, per il resto del giro? Ma adesso sicuramente prendere qualche altra fuga, mi piacerebbe dopo i primi 10 giorni prendere una fuga di quelle che possono arrivare all'arrivo, magari perché no, fare un bel piazzamento. Ciao! Benvenuti al nostro consueto angolo del libro. Oggi siamo in compagnia di Girolamo Portafiore, che ci delizierà col suo nuovo libro Il campanello nella bici. Ben trovato, Girolamo! Salve a tutti! Ci parli del suo libro? Beh, il libro sta vendendo molto bene perché è semplice e diretto! Ci spieghi meglio? Beh, tutto ruota intorno al fatto che, secondo me, nelle bici dei ciclisti bisognerebbe mettere il campanello! Molto interessante, ma perché? Ma principalmente perché fa colore, mette allegria, si strombazza per la strada e si salutano i tifosi che comunque ti aspettano da ore! Li vogliamo gratificare o no? Ma il suo messaggio mi sembra molto chiaro, ma il libro vanta ben 500 pagine. Beh, se mi sta chiedendo quante cose avevo da dire sull'argomento, intanto ho usato un font molto grande, molto grande. Poi ho diviso il libro in 500 capitoli. Primo capitolo, il campanello. Cos'è? Secondo capitolo, il campanello. Perché? Terzo capitolo, il campanello. Perfetto, perfetto, abbiamo capito. Beh, non ci resta che darvi appuntamento in libreria con Il campanello nella bici di Girolamo Portafiore. 500° capitolo, il campanello. Sì, sì. Addie! Abbiamo capito, alla prossima puntata. Non so, 35esimo come si intitolerà? Non lo so. Perché comunque deve essere tutti chiudere tronchi. Come sì, titoli. Per forza. In realtà potrei scoprirlo perché sapete che Mulatero, l'editore di Al Vento, pubblica anche dei libri, Pagine Al Vento, una collana curata dal nostro grande amico Gino Cervi, e so che sono stati in trattativa serratissima per questo. Per i diritti per avere questo, purtroppo non, 500 non, capitoli. Non è stato... acquisito, si chiama Girolamo, tra l'altro, è quasi un parente del nostro podcast. Certo, il Girolamo Portafiore. Ma facciamolo tutto sul campanello da qui alla fine del Giro d'Italia, questo podcast. No? No, secondo me no. Ma secondo te no, mi sembra abbastanza deciso. Ho le idee chiare su poche cose, ma su questa forse sì. Pubblico, Girolamo Portafiore proponeva i campanelli per gratificare il pubblico sulle strade, giusto. Però viene gratificato dal passaggio della corsa e oggi è stato abbastanza gratificato il numeroso pubblico che c'era sulle strade dell'Abruzzo. Cioè molto molto molto più che numeroso. Io oggi ho fatto l'intera tappa in automobile, e presso la fuga di fatto sono stato a ruota dei fuggitivi per l'intera giornata, almeno finché non sono stati ripresi, poi siamo avanzati andando verso il traguardo, chiaramente sull'auto del servizio di assistenza neutrale Shimano, e in certi momenti, soprattutto nei dintorni Montesilvano, Pescara, Silvi, non c'è, sembrava di essere al Tour de France, non c'era un metro di strada libero, c'erano due ali di folla costanti che hanno accompagnato l'intera corsa. Era una cosa veramente, boh, io non dico che ho fatto tanti giri d'Italia, però qualcuno l'ho fatto, e giornate di questo tipo non ne ho viste tante, con questa ripetitività di pubblico presente e numeroso, tra cui un sacco di gente in costume da bagno, perché oggi c'era una gran bella giornata, si passava di fianco al mare e così, e quindi c'era anche il pubblico di chi era al mare. Abbiamo visto abbastanza gente anche a Teramo. Mi è piaciuta molto questa frase che ho captato da una signora muovendomi per Teramo, che diceva alla figlioletta: bello vedere Teramo dove succedono cose, perché evidentemente riteneva una vita non troppo frizzante in quel di Teramo, ma oggi c'era. Ho visto una località che si chiamava Villa Fumosa di Pineto, che già di per sé andrebbe premiata come... E aveva Villa Fumosa di Pineto, ci facevo caso perché vedevo da bordo sala tutti i cartelli delle strade, e sono solo intitolati a personaggi del cinema. Per cui c'è via Edoardo De Filippo, via Aldo Fabrizi, via Massimo Troisi, via Pierpaolo Pasolini, Raff Vallone, Antonio De Curtis, Roberto Rossellini, via Vittorio Gassman. Ma ciò che dà il benvenuto a Villa Fumosa di Pineto è via Gino Cervi. È incredibile. Bellissimo, bellissimo racconto, Filippo. Noi siamo stati... Prima anch'io ho fatto due passi per Teramo e nel parco Ivan Graziani ho scoperto che veniva da lì, Ivan Graziani. Poi con Leonardo... Io vado in bicicletta per sentirmi vivo alle 5 del mattino con la nebbia nei polmoni, cantava Ivan Graziani in Agnese. Sì, credo fosse Agnese. Sì, dovrebbe essere Agnese, ma poi con Michele abbiamo proseguito in automobile la nostra e abbiamo trovato festa anche noi per le strade, in particolare in un comune dove ci siamo fermati. Montesilvano. No. Perché a Montesilvano c'era una festa. C'era anche una festa a Montesilvano. Certo, c'era il trofeo scacchi scuola, non l'avete visto stamattina? Ah, c'era il trofeo degli scacchi nel nostro ex hotel. Il nostro hotel se n'è andato tutto il giro d'Italia, ha lasciato spazio a bambini delle elementari che... Mi chiedevo ieri se erano giocando tutti a scacchi sti bambini, ma cos'è? C'era il trofeo di scacchi, 69 scuole, ho contato la lista nel cartello del pranzo. Fantastico. Seguiremo anche il trofeo scacchi scuola in questo podcast. Ma io invece mi riferivo a Ripa Teatina, dove ci siamo fermati un po' per caso e abbiamo avuto quell'incontro di cui vi abbiamo accennato all'inizio con Walter Marciano, e non solo, anche un grande classico del nostro podcast, I Sindaci Tornano. Michele, accosta un attimo lì a destra, guarda, c'è tipo una statua con una maglia rosa di un pugile. Sì, la vedo. Allora, ci siamo fermati abbastanza casualmente a Ripa Teatina, questo villaggio in provincia di Chieti dove ha sede il secondo GPM di giornata, e abbiamo trovato questa statua di un personaggio famoso. È Rocky Marciano, famoso sì. Pugile degli anni 40-50, insomma. Rocco Francis Marchegiano, suo padre, sì, il nome vero, poi trasformato in Rocky Marciano, e suo padre era di qua, originario di Ripa Teatina, e adesso noi andiamo verso il centro del paese a vedere se troviamo dei pugili. O arrosticini. Un paio di giorni siamo in Abruzzo, non abbiamo ancora mangiato questa specialità locale, abbiamo visto che la Pro Loco di Ripa Teatina ne sta arrostendo parecchio. Sì. Ma sai che voglio dire un'ultima cosa? Ho scoperto che Teatina vuol dire appunto di Chieti, perché Teate era un antico centro di questa zona. Certo. Qualche discendente di Rocky Marciano? Il sindaco, lui è ferrato perché... Chi è il sindaco? Il signore? È lui. Ah, ok, chiediamo al sindaco, meglio di così è impossibile. Okay. Allora, andiamo. Buongiorno. Sindaco di Ripa Teatina? Sì. Al telefono, va bene, aspettiamo che... C'è il sindaco, chiediamo a lui se c'è qualche... Buongiorno signor sindaco, ci siamo fermati qui perché abbiamo visto che c'è la statua. Questo è un paese famoso soprattutto per aver dato le origini al pugile forse più famoso della storia, uno dei più famosi. Sì, Ripa ha dato le origini a due pugili, uno famosissimo che è Rocky Marciano, campione imbattuto e indiscusso, che proprio quest'anno ricorre il centesimo della nascita, e l'altro campione ancora vivente è Rocky Mattioli, nato a Ripa Teatina lui, mentre invece Rocky Marciano è nato a Brockton. E il padre però era di qua. Il papà originario di Ripa Teatina, è partito da Ripa Teatina, e Rocky è tornato a Ripa a visitare Ripa. Abbiamo dei ricordi, delle foto. Marciano venne a Ripa anche per un'altra per un'altra scommessa, voleva conoscere le origini del che portava sempre dietro con sé. Si racconta che è venuto anche in incognita qualche altra volta a trovare questi parenti, e nell'occasione Ripa ha dedicato una porchetta speciale che è rimasta nella storia, tant'è che noi a Ripa abbiamo avuto un grande maestro della porchetta, Antonio Bucci, che ha vinto concorsi a livello regionale e a livello anche nazionale questa porchetta. Cosa ha di speciale? Ha di speciale che questa porchetta era stata confezionata proprio per Rocky, e proprio per sfida qualcuno disse a Rocky: se vieni a Ripa ti faremo mangiare la porchetta più buona del mondo. Questo artigiano, chiamiamolo così, era veramente uno che aveva dei segreti, delle spezie, che poi ha tramandato al figlio. Adesso non c'è più il figlio, c'è un altro figlio di questo Antonio Bucci che ha conservato questa tradizione, non fa questo lavoro, però la tradizione è rimasta, e poi ne hanno fatta da padrona anche i paesi limitrofi. Ma da padrona da noi lo fanno anche gli arrosticini, se vi avvicinate là sarete miei ospiti ad assaggiare degli arrosticini di Ripa. Ci sono tuttora degli discendenti della sua famiglia che vivono a Ripa Teatina? Ce n'è qualcuno qui intorno che possiamo provare a fermare? Sì, se lei adesso segue dritto, a 100 metri trova il palazzo municipale. Va ancora avanti una ventina di metri, troverà una piazzettina con una fontanella, una casa che ha delle bandiere dell'Italia, e lì ci abita Walter Marcheggiano, che è discendente di Rocky Marciano. Walter! I soldi si affaccia. Ha messo lui la bandiera dell'Italia? Sì, ha messo tutto lui. Ha messo tutto lui. Walter, ti puoi affacciare un attimo? Ti devo far parlare dei ragazzi. Buongiorno. Sono del giro. Ciao, ti puoi affacciare un attimo sotto? Dobbiamo parlare con dei ragazzi. Giro d'Italia. Giro d'Italia. Buongiorno. Per quanto riguarda Marciano. Siccome l'hanno mandato da te, affacciati un attimo, a 2 minuti. Venga qui all'ombra che fa caldissimo. Innanzitutto il suo grado di parentela. Di nipote, nipote. Porta lo stesso cognome. Che è? Marcheggiano. Però lei non ha seguito le impronte del... Ma caro, assolutamente. quella è unico. Anche se la mano promette bene. No, nella storia del pugilato mantiene... È unico, come dire, in tutta la storia del pugilato. Quindi non è... Lei l'ha conosciuto? Di Ma certo. Caro, veniva ed era sempre ospite in Italia, dovunque era convocato oppure accettato. Dire, sa benissimo come è stata la storia per cui è morto nel giorno in cui è la stessa condizione per cui qua il calcio è interpretato come in America, ugualmente con la box. In Italia intervengono per dire un campione del calcio che viene ospitato in un club, e per cui si fa festa e tutto qua. In America era lo stesso nei club di pugilato, che lui è morto il giorno del compleanno, per cui è con incidente aereo, per cui gli spostamenti in America non sono tali da permettere, per cui l'aereo come dire in tempesta e tutto quanto, l'aereo personale è caduto, il destino. Ma lei invece che ha fatto nella vita? Io? Sì. Ah, tutt'altro, io sono qua soltanto a Ripa, sono di carattere, così, avevo un negozietto e tutto quanto. Comunque. Il ciclismo lo segue? Oh caro, certamente, ancor più vede quanta un modo di, come di ravvivare un po' l'entusiasmo e anche il paese e tutto. Chi è il suo favorito in questo Giro d'Italia? Ma caro, in gran parte sempre gli italiani oppure i locali. Ma i locali quest'anno mi sa che non ci stanno. Bravo, cosa ancora più. Comunque sono, vedo anche dal loro sforzo e interesse, anche perché è uno sport che necessita veramente una forza personale e tutto quanto. Era tutto un modo di dover anche essere consapevoli di questo, e quindi l'apprezzamento è enorme. Grazie mille, signor Walter. Grazie a voi, grazie. Ha portato avanti una cosa anche per Ripa, entusiasmante. Grazie. Tanti auguri, Walter. Ciao. Walter, grazie. Ciao. Allora, il sindaco di Ripa Teatina nel frattempo è scomparso, quindi purtroppo non potrà offrirci gli arrosticini, ce li siamo offerti da soli, e adesso... Io già parlo male. Se poi tu mi metti il microfono davanti con la bocca piena, è proprio un disastro, viene. Però me li sto godendo questi arrosticini. Centro la Ripa, davanti alla Torre Aragonese. E mo basta, mo continuo a mangiare. E basta, basta. Beh, mi fa molto piacere vedere che anche voi oggi avete dedicato la vostra giornata agli arrosticini. Non siete stati soli, sappiatelo. Era d'obbligo al terzo giorno in Abruzzo. E una correzione, ovviamente l'avete sentito dalla sua viva voce, ma lui si chiama Walter Marchegiano. Marciano è stato poi questo adattamento americano. E come... Rocky Marciano si chiamava Rocco Marchegiano. Sì. Nome che nel ciclismo qualcuno ha già sentito nominare. Sì, mi è venuto in mente Matthew Riccitello, non so per quale motivo, ma è giusto citarlo anche allora, oggi. Allora, tra le varie vie che ho visto nei cartelli delle strade, sono stato molto attento, ho visto anche via Riccitelli oggi. Ah, vedi, allora... Non mi ricordo però in quale comune. Ma pensiamo invece, guardiamo come ci è solito fare a domani, e introduciamo la tappa di domani con un ospite che... forse sta diventando un nostro collaboratore, visto quanto lo stiamo coinvolgendo. Abbiamo chiesto di introdurre la Vasto Melfi a L'Enfant du Pays di domani, perché si arriva in Lucania, Domenico Pozzovivo. La prima parte si snoda assolutamente sulla costa abruzzese molisana, in cui assolutamente ci sono bellissime spiagge, c'è un ottimo cibo, soprattutto di pesce. E poi si attraverserà tutto il Tavoliere delle Puglie, che è la pianura più grande che c'è a sud Italia. È famosa anche sia per i pomodori, anche se siamo fuori stagione, che per le olive, perché passeremo veramente anche vicino a Cerignola, è una zona di olive ottime. La bella di Cerignola. Assolutamente, più che altro un'oliva da tavola, cioè da mangiare, da conservare, più che da fare olio. E poi addentreremo invece verso la Basilicata, e il paesaggio cambierà, sarà comunque molto boschivo, quindi zona assolutamente di ottimi funghi, soprattutto porcini. E si alternerà, diciamo, il bosco con le vigne che sono un po' sul pendio del vulcano spento, il Vulture. Infatti noi affronteremo una salita che praticamente porta a due laghi abbastanza conosciuti anche a livello turistico, che sono i laghi di Monticchio, in cui soprattutto d'estate si effettuano tantissimi picnic. È una zona molto fresca in cui ci può concedere assolutamente una bella, diciamo, giornata. E ridiscendendo poi verso Melfi troviamo assolutamente una zona in cui è famosa l'acqua, Rio Nero, in cui viene imbottigliata l'acqua famosa, diciamo, diversi famosi marchi, attraversando sempre i vigneti in zona Barile, dove già il nome stesso indica la vocazione del paese, diciamo, a mettere nei barili il mosto. Finché poi si arriva a Melfi, che è famosa sia per la produzione del marrone, tipo di, diciamo, una varietà di castagna che si chiama marroncino di Melfi, e sicuramente assolutamente da gustare un primo lucano, che è ovviamente a base di pasta fatta in casa, è un ragù con la carne che c'è un po' tipica della nostra zona, tipo agnello e anche maiale. È un bicchiere di... Aglianico, assolutamente. Aglianico del Vulture, no? Sì, l'aglianico del Vulture la fa da padrone in questa zona, assolutamente. Un rosso corposo e tannico. A me piace l'aglianico del Vulture, non guardatemi male, ma spero in un buffet ricco in aglianico. Chi se ne frega delle acque del Monte Vulture, quelle possiamo, no, anche possiamo anche farne a meno, ma puntiamo tutto sull'aglianico. O su qualsiasi altra offerta del nostro ricco buffet, che oggi non c'era, per cui domani speriamo almeno a giorni alterni. Speriamo, ringraziamo Domenico Pozzovivo per la puntuale analisi non tecnica della tappa, perché gliel'abbiamo chiesta noi che fosse così. Invece Michele, dici in due parole cosa troveranno i corridori nel finale della tappa di domani. Dopo i 200 km circa si comincia ad andare un po' su e giù, e il finale è parecchio mosso, perché le salite verso... il valico dei laghi di Monticchio. Andiamo in vacanza da piccolo. Monticchio è un comune confinante col mio, per cui ecco, ho confuso. E il valico La Croce possono selezionare un po' i velocisti che non hanno gamba. Si tratta di 6 km a 6.4% la prima, e dopo 5 km di discesa un'altra che ha punte anch'essa al 10%, lunga quasi 3 km. Per cui... Insomma... E questo si traduce in pronostico? In un pronostico direi Michael Matthews, Mats Pedersen, questo tipo di ruota veloce. Jonathan Milan, attenzione anche lui domani, anche perché gli ultimi 300-400 metri sono all'insù, leggermente all'insù, diciamo 4-5%, fino ad arrivare a Piazza Archimede a Melfi. Per cui devi un essere... finale pitagorico. Bellissimo, bellissimo Filippo. Devi essere in grado di tenere sulle salite. Beh, come sempre direi. Secondo me queste pendenze sono un attimino eccessive per Milan, ecco, se dovessi sbilanciarmi in un pronostico. E sì, Matthews, ho già giocato il jolly col pronostico indovinando oggi, domani vado sul tradizionale dicendo Matthews. Domani vince Vendrame. Quindi va via la fuga domani. Boh, magari anticipavo. Non lo so, volevo dire questo nome, mi è venuto così. Volevo dire un altro, ma poi ho deciso che avrei detto Vendrame. Va bene, perché no? Benché non interpellato. Perché no? Stiamo andando verso la chiusura, Michele alza la mano per dire che... Per me domani vince Vincenzo Albanese. Ma l'avevi già fatto il pronostico? Sì? Sì, no. Avevi detto Matthews o Milan. Vabbè, io volevo fare uno più secco, uno più preciso, solo un nome. È un proprio completamente diverso. No, comunque il tuo preciso è dare quattro nomi. Pedersen, tengo... Milan, Albanese. La mia rosa di opzioni è comunque larga, capito? Deve essere un po'. Mi sembra giusto. Stavo dicendo, Leo, scusami. No, stavo dicendo che stiamo andando verso la conclusione e ti volevo chiedere di ricordare ai nostri ascoltatori così pazienti quali sono gli strumenti o i luoghi per trovare quello che facciamo. Sono tanti e sono social, newsletter, Telegram, devo ancora fare il pezzo per la newsletter, mo finiamo che devo andare a scrivere. Tanti stanno scrivendo sul gruppo di Al Vento Telegram per incontrarci, per vederci dal vivo. Ho smazzato oggi cappellini, riviste, la birra di Al Vento, tante robe carine, riviste soprattutto, i vari numeri, quindi se vi manca qualcosa... Soprattutto diccelo. Birra hai smazzato. Questa cosa non ti è andata giù, quindi grazie Luca, a Cristiana, abbiamo visto Giovanni oggi... E su Telegram c'è Facebook, tutte più o meno sono le pagine, si chiamano Al Vento Magazine, Al Vento, Bidon, ovviamente c'è Bidon, c'è su Twitter Ciclismo Liquido, insomma noi siamo iperattivi sì. Fin troppo nella nostra produzione web. Ci tenevo a segnalare una sola cosa che non c'entra nulla con tutto ciò, ma mi piace dirvela perché l'ho letta oggi e la metto così qui in chiusura. Ed è il fatto che ieri abbiamo parlato di questa costa che diventa zona 30 per tutta l'estate, tra tutti i comuni di questa costa. Questo weekend c'è stato un grande convegno a Bologna che è Mobilitars, che ha elaborato una proposta per una legge nazionale per l'istituzione delle città a 30 km orari e verrà discussa in Parlamento e sosteniamo ogni forma di intervento che difenda la vita dei ciclisti e degli utenti leggeri delle strade. Senza alcun dubbio. E adesso salutiamo i nostri ascoltatori dandogli appuntamento a domani, non prima di aver introdotto un altro contributo come ieri anche oggi uno di noi. In questo caso come Filippo. Ieri anche oggi, sì, come già detto, quest'oggi ho trascorso la giornata in corsa. Anche per me si è trattato chiaramente di un battesimo di questa cosa, perché non mi era mai capitato di essere all'interno di una corsa. Non è stata una tappa esattamente frizzante, ve ne sarete accorti, ma è stato bello mettersi a ruota dei fuggitivi, perché siamo stati prevalentemente a ruota dei fuggitivi. Nell'auto c'erano Federico Verri, che è un meccanico di Shimano, e Pietro Algeri, l'abbiamo citato mille volte, DS che dalla Del Tongo alla Sonia Duval ha attraversato la storia del ciclismo recente, e sentirete lo la voce, citeremo ancora. Sentirete la voce soprattutto di Pietro in questo contributo audio, che è quello con cui vi lasciamo. Ovviamente quando si carica in automobile uno come me, di ciclismo si parla poco. A domani, ciao! Quanto è grande questa bandiera? Circa 6 metri per 3. Ma l'hai fatta a mano tu? L'ha fatta mia mamma per il mondiale italiano del 2006. Nel ciclismo ho visto tante gare di ciclismo, perché ogni volta modello leggermente, palloncini, qui in questo caso abbiamo aggiunto anche lo stendardino del Teramo. Siamo nella piazza della cattedrale di Teramo, credo sia, colpevolmente non ho controllato, sul lato della chiesa è stato appeso questo gigantesco bandierone mutante di cui abbiamo parlato un attimo fa, e l'auto è in fase di allestimento, sono le ultime bici che vengono caricate. Il ciclismo, le gare di ciclismo sono le sole che bloccano le strade così, in questa maniera, e succede solo quando c'è le visite del Papa è quando ci sono i grandi presidenti e il ciclismo è stop. Quindi non è poco, eh. Cioè, tu pensi quando entri nelle città, nei paesoni pieno di gente, la strada è tutta libera per noi, da destra a sinistra, è un qualcosa di... Ti senti un po' presidente, ecco, in questa situazione. Senti, è qualcosa di unico, di che lo fanno solo per pochi. Quindi come siamo divisi? L'auto davanti va sulla fuga? No, come esce la fuga, dopo che ha mezzo minuto così, entriamo noi, assistiamo noi. E noi l'accompagniamo fino a quando hanno 2 minuti di vantaggio. Ma tutte e due, sia noi che l'auto davanti? No, l'auto davanti continua sempre. Quando supera i 2 minuti, chiamiamo la numero uno, rallenta e prende il nostro posto. E noi torniamo di nuovo in testa al gruppo. Ci rialziamo dalla fuga. Sì, lasciamo la fuga, ritorniamo in testa al gruppo per eventuali altre fughe o così, insomma, ecco. E poi ce n'è una terza che è in fondo al gruppo per chi si stacca. Quella segue sempre il presidente di giuria, no, praticamente. Il presidente di giuria sta sempre sul gruppo più grande e nel momento che il presidente passa, non fanno passare subito tutte le ammiraglie delle squadre. Quindi da quel momento lì l'assistenza la fa la nostra vettura, insomma. 3 champion della Cofidis, l'8383. Pietro! Dimmi! Ripeti perché siamo andati sopra. Mi sono fermato! Ah, ok. Adesso ha passato i 2 minuti. Ok, 10.3. Buoni. Sì. Ma si mangia comunque andando in giro con la macchina durante la corsa. Oh. È importante. Una frase che mi ha insegnato Ernesto Colnago, mi ha detto: anche se l'azienda va male, il fisico non deve patire. Cioè, sbattisci anche il fisico, non andiamo più avanti dopo. Perché la comunicazione radio è stata chiara, della radio della comunicazione interna ha detto: Anereto, danno gli arrosticini, e giustamente abbiamo allungato lo sguardo e nel mio caso anche la mano, e adesso facciamo uno spuntino. L'Italia, facciamo gli arrosticini fuori e ci guardiamo la toffa. Bella vita. Una delle altre frasi di Colnago era, diceva in milanese, è un bel Monkeschi. È un bel mondo questo. Godetevelo fin tanto che potete, perché non dura sempre. Un altro arrosticino? No, basta. Sei a posto? Sicuro dietro non vuoi un arrosticino? Sicuro, no, se li devi mettere da qualche parte, dateli. No, me li metto in bocca se non li volete voi. Una volta da direttore avevamo una tovaglia che mettevamo così per non sporcarci, perché a volte facevano i panini farciti con tonno, cipolline, eccetera, eccetera, di tutto, insomma, no? Avevo un massaggiatore poi che era uno specialista di quei panini che erano di un appetitoso incredibile, e quindi con questa tovaglia davanti ti proteggevi i pantaloni, la maglietta, cioè tu guidavi in corsa con la tovaglia sulle gambe, esatto, come... e poi finito. Ma la tovaglia quella a scacchi bianchi e rossi, la trattoria, sì, una cosa del genere, e poi finito di mangiare si sbatteva fuori le briciole. Io ho imparato, sai di che? Ho imparato da Echevarri, il direttore di Durai. Vedevo, gli spagnoli erano veramente dei signori a tavola, in macchina. E quindi abbiamo imparato con il mio meccanico, abbiamo comprato la tovaglia e l'abbiamo messa per un po'. Cioè, buon appetito. Oh, ragazzi, grazie. Buoni gli arrosticini, eh. Erano meglio di quelli di ieri sera come cottura. attenzione a questo nome, attenzione a Jonathan Milan. Anche a cosa è tipo Carnarecchia. Fine. Il nostro traguardo l'abbiamo raggiunto. Non avete neanche ruote da scambiare. No, infatti i nostri colleghi sono qua. Ecco che è stata disputata la volata. Attendiamo l'ordine d'arrivo ufficiale. Dorsale 45 in prima posizione, ufficioso.